Sì, non sentivo differenza. Mi senti? Non sentire differenza. No. Potresti anche provare a ridurla. Ancora. No, no, no, ho sentito, no, no, no, io sentivo bene, sentivo benissimo. No, è che sento a scatti, ma è colpa mia. Noi stiamo suonando col metronomo, ma poi non ho sentito.